La rosa purpurea di Franco D'Assisti. Ed eccoci qua, all'ora di cinema di Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisti, ben ritrovati in questo ultimo weekend di giugno, con l'estate piena che pressa sulle nostre città, ma che ci invita anche al fresco del cinema. Una settimana bella densa di bei film. Quindi abbiamo veramente avuto anche problemi di incastro, tante interviste, ma tanto cinema da consigliare. Siamo contenti quando le settimane sono così. Ne parliamo fra poco, cominciamo fra poco con i primi titoli. Prima però andiamo subito nel centro della trasmissione con i temi dei titoli di testa. Una misteriosa pandemia che fa resuscitare i morti e li trasforma in zombie alla conquista della Terra. E un ex funzionario dell'ONU chiamato alla missione impossibile: trovare il vaccino per salvare il mondo. Convince World War Z, il nuovo film del filone catastrofico prodotto e interpretato da Brad Pitt. E tanto per restare alla catastrofe, sebbene con toni più intimisti, dopo aver colpito la critica a Venezia, sbarca in sale il bellissimo La quinta stagione. Nelle Ardenne non ci sono più le primavere di una volta. Le piante non germogliano, gli animali non producono, la terra sembra in rivolta. Fra Bruegel e i fratelli Dardenne, capolavoro per l'esordio alla regia di Peter Brusens e Jessica Woodworth. Dopo la vittoria nella Semaine de la Critique a Cannes, arriva sugli schermi italiani Salvo, di Fabio Grassadonia e Antonio Piazzo. È la storia di un killer spietato che incrocia il suo destino con la sorella cieca di un mafioso. Due personaggi fuori posto, che cercheranno una via di fuga dalla loro vita. Ascoltiamo l'intervista esclusiva ai registi. Un'attrice impegnata, una madre anziana, un ménage casalingo che si fonde con una pièce sul palcoscenico. Bell'esordio nel lungometraggio per Laura Chiossone, che dirige Tra 5 minuti in scena, con un cast di attori teatrali capitanato dall'esplosiva Gianna Coletti. Le interviste alla regista e alla protagonista, alla Rosa Purpurea. E allora, carnet molto ricco. Fra i film di cui non abbiamo parlato nei titoli di testa, ma di cui parliamo invece molto volentieri perché ne vale la pena, c'è Doppio Gioco. Il primo film di cui vogliamo occuparci è un film che piacerà molto a chi ha amato tutto il filone sul cinema nordirlandese legato alla questione dell'IRA, alla guerra civile, e si inserisce a pieno titolo con la capacità di rivisitare il genere, dicendo qualcosa di nuovo, raccontandolo su un aspetto più intimistico, su quelle che sono le rinunce che una donna deve fare, ha fatto per proteggere praticamente la propria famiglia da una situazione molto molto delicata, sospesa fra la pressione della polizia britannica e appunto l'esercito di liberazione irlandese. Stiamo parlando appunto, dicevo, di Doppio Gioco. Due nomi su tutti nel cast: Clive Owen e Gillian Anderson, che ricorderete attrice di tanti telefilm a partire da X-Files degli anni 90. Lo ha visto per noi Chiara Pizzimenti. Sei una terrorista. Ti abbiamo in pugno. Sei finita. Ma se lo tieni d'occhio e ci dici le sue mosse, sei libera di andartene. Potrai tornare da tuo figlio. Non succederà nulla. Non morirà nessuno. È la proposta che un agente dei servizi segreti inglesi fa a Colette, giovane madre single irlandese presa dopo aver lasciato una bomba inesplosa nella metropolitana di Londra. Siamo negli anni 90. Accettare o no? Salvare il proprio figlio o continuare la lotta con i fratelli all'interno dell'IRA? Colette appartiene a una famiglia segnata dal conflitto nordirlandese. Uno dei fratelli è morto bambino negli scontri. Tutti sono devoti alla causa, anche se non per tutti la lotta deve per forza essere armata. Faremo questa cosa insieme, ma devi esserne sicura. Dobbiamo parlare, subito. Fai un solo errore e io sono finita. Kevin sa tutto. È quello che deve farti credere. Non posso più aspettare. Devo avere l'ordine adesso. Non se ne parla. Non si fermerà finché non avrà sparato in testa a qualcuno. Sono morta. Sono morta! Non lo permetterò mai. Colette accetta, ma il suo ritorno indenne da Londra lascia il dubbio fra i capi dell'IRA. È tenuta sotto controllo, i fratelli sono interrogati. e il dubbio si insinua anche nella gente che l'ha infiltrata. La sua azione non sembra essere sostenuta dai colleghi, come se ci fosse qualcun altro da proteggere, come se questa donna fosse sacrificabile. L'obiettivo di una spy story è farci rimanere con il dubbio anche dopo essere usciti dalla sala su chi sapesse veramente cosa, su chi aiutasse chi, su chi tradisse chi e su quanto non avevamo capito dell'inizio del film, doppio gioco, la verità si nasconde nell'ombra, c'entra abbastanza l'obiettivo. James Marsh, documentarista premio Oscar per Man on Wire, non dimentica la sua storia passata e cura i dettagli storici raccontandoci dell'Ira, già protagonista o comprimaria sul grande schermo, dall'Ombra del Diavolo a Nel Nome del Padre, da Bloody Sunday all'Agenda Nascosta di Ken Loach, ancora Il Vento che Accarezza l'Erba, Hunger, The Boxer. Soprattutto però crea un intreccio di spie, doppi e tripli giochi, che non brilla per originalità assoluta, ma è ben sostenuto dal cast. Clive Owen, Andrea Riseborough, Gillian Anderson. Presentato al Sundance Film Festival 2012 e poi ancora a Berlino nello stesso anno, ha anche raccolto premi per gli interpreti in patria, non incassi al botteghino, con una distribuzione limitata e in molti casi ritardata. Scribe the words of God. La rosa purpurea. Ciò che sappiamo è che l'aereo ha toccato terra. Sì, queste sono le radici. Che cos'è? Statua della libertà o uomo di neve? No. Papi, che cos'è la legge marziale? È una domanda alla quale dopo poco tempo Papi, ovvero Brad Pitt, avrebbe dovuto rispondere e non sarebbe stato facile. Era una giornata normale, come avete sentito, quella nella famiglia di Jerry Lane con la moglie, i bambini, con Philadelphia che come sempre brulicava di traffico. Però quel giorno c'era qualcosa di particolare in quel traffico. Tutti incanalati nella principale avenue di Philadelphia, con la pressione delle macchine che si fa via via sempre più stringente, con la gente che a poche centinaia di metri comincia a muoversi frettolosamente, a scappare come inseguita da qualcosa di molto violento. Quando Jerry se ne rende conto, a sua volta lascia la macchina, prende la famiglia, sale su un furgone e comincia a correre. Verso cosa e lontano da cosa? Lontano dagli zombie che si sono improvvisamente impadroniti di quella città. Piano piano si impadronieranno di tutte le altre città ed ecco perché servirà la legge marziale raccontata dal TG e che a un certo punto richiederà il suo intervento in prima persona da ex funzionario dell'ONU, ma con tanta esperienza anche sul campo, per cercare di salvare questa che è una vera e propria battaglia per l'umanità. Abbiamo perso la East Coast, Mosca è ancora al buio. La vita come la conosciamo finirà entro 90 giorni. Sta a noi far sì che non accada. Non lascio la mia famiglia. Non finga che la sua famiglia sia esente. Qui si parla della fine dell'umanità. Insomma, la posta in palio è totale. Le famiglie che hanno qualcosa da dare alla causa, e in maniera, devo dire, anche un po' verticistica, vengono caricate su alcune navi che vengono portate al largo nell'oceano ed è l'unico punto praticamente sicuro di tutta la Terra, mentre gli zombie, che diventano zombie come abbiamo visto nella gran parte dei film, morsicati, infetti, dopo pochi secondi si rialzano e ricominciano a correre velocissimi e ad azzannare altre persone, insomma una sorta di pandemia di zombite potremmo chiamarla, che si sta impadronendo, come dicevo, di tutta la Terra. Ebbene, queste navi al largo sono l'unica ancora di salvezza. Su queste navi viene fatto salire solo chi ha qualcosa da dare alla causa e ovviamente la famiglia di Jerry Lane, legata alla capacità di Jerry di essere l'uomo sul campo, qualcosa ce l'ha. Jerry però viene mandato subito in missione con una serie di compagni, alcuni improvvisati, alcuni no, in giro per il mondo, letteralmente in giro per il mondo. Sarà un film di partenze, atterraggi, tentativi di recuperare cosa? Un vaccino, anzi una sorta di antivaccino che possa servire all'umanità per camuffarsi agli occhi degli zombie. Allora eccolo in giro per l'ex Unione Sovietica, poi a Gerusalemme a cercare questo misterioso antidoto, un giro che poi finirà in Svizzera, dove è impegnato nel cast anche il nostro Pier Francesco Favino. Io sto bene. Alto. Vai. Contate le munizioni e riempite i caricatori. Il rumore. Loro ne sono attratti. Sì. Li attira. Hai già avuto a che fare con loro? Philadelphia, New York. Sono messi male. E Houston invece? St. Louis? Baltimore? Atlanta? Detroit? Ragazzi, sarò onesto con voi. Non c'è rimasto un posto che se la passi bene. È un film che mischia sapientemente il genere pandemico catastrofista, Epidemic, uno degli ultimi episodi, ma insomma ne abbiamo visti moltissimi, e d'altra parte invece il genere proprio horror degli zombie, un po' alla Romero. E proprio per questa capacità di mixare sapientemente i due elementi risulta, se non nuovo, sicuramente gradevole, senza ripetere lo stereotipo da una parte dello zombie che poi macella tutti e se li mangia a morsi, e neanche dall'altra parte alla questione legata a Big Pharma e a tutti i delitti delle multinazionali. Qui invece le due cose stanno insieme bene, con un grandissimo ritmo, di cui sicuramente va dato atto anche al regista Mark Forster. Nel cast abbiamo detto Brad Pitt, primeggio ovviamente, un film tutto su di lui, tra l'altro un film nato da lui, che ha letto il libro omonimo di Max Brooks, se n'è innamorato, ha voluto il copione, ha prodotto il film mettendoci anche del danaro e lo ha interpretato. Dicevamo di Pierfrancesco Favino, che ha un ruolo interessante, non un vero e proprio cameo, anzi un ruolo abbastanza importante, di un ricercatore quando il film trova la sua parte finale nei laboratori dell'Istituto Mondiale di Sanità in Svizzera, dove appunto si cerca questo antivaccino finale. Un film divertente per chi magari non ha mai voluto vedere i film degli zombie perché è troppo sensibile. Però interessante proprio soprattutto per questo ritmo interno che sa dare a ogni situazione, a ogni viaggio, a ogni partenza, per la capacità di creare situazioni anche visive molto forti, come la scalata degli zombie, vera e propria montagna umana per superare le mura di Gerusalemme, oppure tutta la sequenza su un aereo bielorusso sul quale a un certo punto uno zombie è riuscito a entrare e quindi a un certo punto a incutere terrore. Insomma, non vi anticipo molto, ma sicuramente è un film che ha colto il mio applauso, ma vedo quello di molta critica, questo World War Z o Z come volete pronunciarlo, all'italiana o all'inglese, un film sul cui approccio Brad Pitt si racconta così. La cosa affascinante del libro è il suo approccio alla storia, come fosse una pandemia. Abbiamo avuto momenti di paura in questi ultimi decenni. Così abbiamo pensato che sarebbe stato davvero interessante trattare questo genere in maniera completamente diversa e guardare cosa sarebbe successo al protagonista alle prese con una delle tante pandemie, come quelle di cui siamo stati testimoni in questi anni. Cosa sarebbe accaduto se la situazione fosse degenerata e improvvisamente tutti ne avessero subito le conseguenze? Tutto è iniziato con questa fascinazione. Poi ai miei ragazzi è piaciuta talmente tanto che ho finito con il realizzarlo. E allora, questo era il racconto di World War Z nei cinema italiani, bel filmone di quelli intensi, appunto, del filone catastrofico, che ci riconcilia un po' con certe brutte copie, remake, reboot fatte negli ultimi anni. Stavolta invece l'operazione è riuscita, almeno come film di intrattenimento, in maniera perfetta. Giochiamo insieme, perché è arrivata la prima pausa dedicata al DVD game, dedicata al nostro film misterioso, tre tracce per poterlo indovinare e provare a vincere questo film, a partire da questa. Non sono io, sono Sbronzo, ma la mia anima che parla la lingua diretta dell'anima, per così dire, al mio più profondo fratello di sangue, Sacro Gonzo, cioè tu. La Rosa Purpurea @radio24.it, se avete già indovinato di che film si tratta, con il vostro indirizzo privato per provare a ricevere la copia in Blu-ray di questo film, una per il sabato, una per la domenica, più tardi. Altre due tracce. Allora, prendiamoci adesso questi minuti per parlare di un film italiano. Abbiamo detto settimana molto intensa, molto importante come qualità, come capacità di fare film e presentare film finiti, che non lasciano grossi dubbi. È così anche per Salvo, il film che ha, non più tardi di un mese fa, vinto la Semaine de la Critique al Festival di Cannes. Antonio Piazza, Fabio Grassadonia lo hanno diretto. La storia di un killer, una sorta di macchina da guerra in Sicilia, a Palermo, un killer della mafia che a un certo punto incrocia sulla sua strada una ragazza bellissima, cieca e soprattutto sorella di un altro mafioso. Regolamenti di conti a parte, i due a un certo punto troveranno il modo di servirsi, di essersi utili uno a vicenda, l'uno all'altra, per cercare di fuggire dal destino di una vita che sembra segnata. Per Palermo l'inferno sembra non finire mai. Caldo torrido con temperature che sfiorano i 40 gradi e come d'estate incendi. Piangerai come pioggia, tu piangerai. Le note di questa bellissima canzone dal trailer di Salvo, un film dove si parla pochissimo, è una cosa che si registra anche nel trailer, poche le parole, tante le situazioni, tanti i momenti di suspense, un film che cambia continuamente registro, inizia come un vero e proprio film di mafia con inseguimenti, sparatorie girate anche molto bene, poi dopo l'incontro fra Salvo e Rita diventa un'altra cosa, lunghissima sequenza nella casa di Rita che si pensa, essendo cieca, non vede e non coglie la presenza di Salvo e che invece la coglie benissimo, e quindi è una sorta di viaggio sensoriale all'interno delle sensazioni di questa ragazza, e poi la fuga dei due, il tentativo di proteggersi, tentativo molto difficile all'inizio, poi via via più consenziente l'uno all'altra, e infine il destino che si compie. Mischiano i generi, mischiano gli ingredienti, mischiano anche i toni della narrazione Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, che abbiamo incontrato a margine della prima milanese del film. Sentiamo cosa ci hanno raccontato. Una storia che racconta Palermo, racconta un fatto di mafia, un personaggio di mafia, ma lo fa guardando sempre da un'altra parte. Abbiamo deciso di provare a raccontare una storia palermitana, quindi anche con delle figure, delle situazioni riconoscibili, anche abusate, e proprio perché abusate, provare a utilizzarle, queste figure, per raccontare qualcosa di diverso e raccontarlo in un modo diverso. Quindi provare a far entrare il pubblico dentro una storia nella quale sembra facile accomodarsi, perché sembra una storia già vista tante volte, e invece noi facciamo succedere qualcosa che ti porta e porta i personaggi all'interno di un'altra storia. A livello stilistico ci sono momenti da commedia grottesca, soprattutto quelli con Locascio, insomma quella zona lì. Ci sono momenti da film di mafia, la sparatoria iniziale, l'inseguimento, l'esecuzione nel cantiere. Ci sono addirittura momenti e movimenti, soprattutto di macchina, che appartengono quasi al thriller in un certo senso, cioè alcune camminate di Sara, eccetera. Dove avete pescato, dove avete formato il vostro immaginario in questo senso, e perché avete scelto proprio questa ingarbugliata commistione di genere? Tutto questo incrocio nasce proprio dallo sviluppo della storia. Volevamo assecondare questa storia con la forma che meglio rendesse l'evoluzione di quel momento della storia. E il cinema di cui ci siamo nutriti è il cinema, vabbè, c'è una prima scena quando presentiamo il protagonista che è un omaggio evidente alle Samurai di Melville, e quindi ad Alain Delon, che era un po' la figura che noi pensavamo di killer freddo e solitario. Poi certo ci sono altri, ci piace un certo tipo, anche siccome è un film fatto anche di una camera, di una macchina da presa che indugia parecchio nell'esplorazione di quello che accade nella relazione fra i due, fatte di silenzi, di lunghe durate, allora anche un certo tipo di cinema più asiatico, che può essere Kinky Duk o Takeshi Kitano, può essere The Killer di John Woo, cioè lì ci serviva per cogliere, far vibrare, diciamo, quello che sta accadendo realmente nell'anima di questi due protagonisti. Gli spazi aperti, certo Leone diventa evidente, devi per forza, però anche alcune atmosfere, per esempio della fuga notturna, legate più a alcune cose di Arthur Penn. E poi siamo degli amanti dei generi cinematografici che appartengono al DNA della storia del cinema italiano. Ora sembra che ce li siamo dimenticati, siamo tutti ricaduti in questo genere unico che è la commedia, che non è neanche più la commedia all'italiana. Magari lo fosse, queste piccole commedie rassicuranti. Invece il genere è il cinema, allora perché non provare anche noi in Italia a riscoprirlo, visto che un po' l'abbiamo inventato anche noi? E con questo interrogativo importante dai registi di Salvo, ricordiamo Nelle sale, il film premiato come miglior film della Semaine de la Critique di Cannes di quest'anno, tra l'altro già venduto in molti paesi europei, questo a dire che tante volte facciamo più fatica noi a vedere i nostri film che non gli altri all'estero, comunque in uscita in 20 città italiane, quindi la possibilità di andarlo a vedere c'è tutta. La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, dicevamo, altro film italiano, altro esordio alla regia per un lungometraggio, quello di Laura Chiossone con Tra 5 minuti in scena, e altra sorpresa, altra rivelazione. Una storia che tocca tantissime famiglie, quella di una donna di, ormai di mezza età, possiamo dire, oltre i 50, con una madre molto anziana, molto malata, da accudire in casa, e una vita che si splitta letteralmente fra queste cure di una persona che ha ribaltato l'anagrafe, è diventata la figlia della figlia sostanzialmente, dipende totalmente da lei, e il lavoro, che in questo caso è il lavoro di attrice teatrale, del teatro off, quello che si dimena per sopravvivere magari fra assenze di finanziamenti, pochi spazi, ma tanta voglia di raccontare appunto a teatro. E allora una storia, quella raccontata da Laura Chiossone, che intreccia un piano quasi documentario, quello di Gianna Coletti, attrice protagonista, direi mattatrice protagonista di questo film, che è se stessa con sua madre e recita il ruolo di una donna che ha una madre a carico in una pièce che sta montando, di cui si stanno provando le scene a teatro. È inevitabile che i due mondi si fondano e che ne venga fuori un racconto in certi punti struggente, sempre molto ironico però, perché la chiave che Gianna ha voluto dare, con la quale ha voluto affrontare la sua vita e questo film, è quella sicuramente dell'ironia, del non piangersi addosso, del cercare un codice di comunicazione con questi anziani e soprattutto di raccontare che c'è speranza, di raccontare a chi vive, e sono centinaia di migliaia di famiglie, questa situazione, che raccontare e condividere è il modo migliore per sentirsi meno soli e per sentirsi anche un po' più leggeri. Allora ascoltiamo il trailer di questa, che rimane assolutamente una commedia molto fruibile, anche molto divertente in certi momenti, e poi le interviste con la regista e con l'attrice protagonista. A mezzanotte va la ronda del piacere, nell'oscurità ognuno vuol godere. Abbiamo poco tempo, abbiamo 2 settimane per montare lo spettacolo e quindi conto su di voi. Sai che devo provare uno spettacolo? Sai di che cosa parla? Di che cosa? Parla di una figlia, che sarei io, che deve accudire questa madre anziana che le dà un sacco di problemi. Lo sai che Gianna sta passando un momento difficile e io cerco di aiutarla. Ma dai, ti prego Lorenzo, non insistere. Sai come sono combinata, no, con mia madre? Lasciali stare gli artisti, che sono tutti dei morti di fame. Non sto dando tutta me stessa a questo personaggio, io dovrei dare di più sul palco, di più. Tuo marito i soldi ce li mette? E vai! Ma tu mi trovi bella? Bellissima. E dopo 40 anni sono ancora qui, alle prese con mia madre e con il teatro. Allora, le parole di Gianna Coletti che chiudono il trailer, andiamo a ascoltarla. Allora, questa attrice, tantissima esperienza nel teatro off milanese, ma adesso la prova dello schermo, la prova che regge benissimo. Tutti in sala durante l'anteprima hanno notato la incredibile somiglianza, ma anche espressiva, con Mariangela Melato. Lei ha detto, certo, io ne sono onorata, è tutta un'altra vita la mia teatrale, però ecco, per darvi un codice di riferimento, siamo da quelle parti, almeno visivamente, almeno come approccio, come ironia, come capacità di sorridere un po' sorniona alle cose anche difficili della vita. E allora ci facciamo raccontare proprio l'approccio, con l'approdo a questo film da Gianna Coletti. È un film che, nonostante ci sia questo spaccato di verità, perché è vero che è un film a tutti gli effetti, dopodiché una delle attrici prende e ritorna a casa, e quella è la mia vera casa con la mia vera madre. Ecco, la mia mamma non sta tanto bene, perché come la maggior parte delle persone anziane, mi sembra una cosa abbastanza naturale. La regista però ha fatto una cosa molto, molto bella, secondo me. Ha ripreso mia madre i momenti anche molto leggeri. Mia madre ha dei tempi comici straordinari. Non è un film sulla morte, ma è un film sulla vita e come si può vivere. Sono cose che io vivo, voglio dire, veramente tutti i giorni sulla mia pelle. Certo che non è semplice star vicino a una persona in quelle condizioni, perché non dimentichiamoci, oh, ma la vecchiaia, ma questi ci penseranno che prima o poi, più prima che poi, dovranno morire. Non abbiamo paura poi a dire questa parola. L'importante è condurli per mano bene. Io mia madre, ma io le racconto un sacco di balle sempre. Ma sì, gli ho detto, mamma, ma tu lo sai che adesso tu mi sei diventata un'attrice famosissima? Ma no, sì, ti dico di sì. Oh, bella. E quando è che ne facciamo un altro di film? L'elemento della condivisione è fondamentale per queste malattie lungodegenti, diciamo così, ed è una cosa misconosciuta. Per voi l'elemento condivisione in un certo senso diventa un po' forse anche lo spettacolo teatrale. Nel film, questo tuo passare dalla vita privata alla stessa storia sostanzialmente sul palcoscenico è veramente un modo catartico di buttare fuori un po' di tossine, no? Sì, perché è carina questa cosa del teatro che è inserito anche nel film, e ripeto, è tutto molto armonico, e non pensate di vedere sbalzi di sceneggiatura, di linguaggio, è tutto racchiuso in un contenitore, secondo me, molto fruibile da tutti, anche molto semplice come visione. E a proposito della condivisione, che è fondamentale, adesso mi faccio un po' di pubblicità, non al film, a 3-5 minuti in scena, ma bensì al blog che ho aperto da poco. Si chiama Mamma a carico, sottotitolo Mia figlia ha 90 anni. Non potete capire quanti messaggi, quante lettere, c'è una condivisione totale. Io lo tento di tenerlo sempre molto ironico, ho voluto di proposito dare un taglio ironico, certo poi con delle considerazioni magari anche importanti, magari, no? In modo che uno, insomma, si possa attaccare, però per carità, scegliamo la via. Io ho voluto scegliere la via della leggerezza, dell'ironia. Non voglio che sia solo un contenitore di dolore. Così Gianna Coletti, protagonista di 3-5 minuti in scena, un film, dicevamo, molto milanese anche visivamente. Ne abbiamo parlato con la regista Laura Chiossone. La mia partenza era la realtà, Gianna ed Anna, la loro vita reale, quindi un linguaggio ai confini del documentario, io e un operatore, a volte neanche quello, in casa loro, in posizione di ascolto. Avevo un canovaccio con 8 situazioni, ma che erano 8 situazioni che Gianna mi ha suggerito che erano la normalità per lei e sua mamma, i meccanismi del quotidiano. Come andare oltre e fare un film di questo, non fare un documentario? Come fare un film in 2 settimane? E lì l'idea, portata sempre dalla realtà, perché Gianna fa l'attrice di teatro, da lì l'idea del gioco del linguaggio. Allora, rimettiamo in scena con il linguaggio più distante, quello del palcoscenico, quello della messa in scena, la vita stessa di Gianna. Facciamola interpretare un personaggio di una figlia con un'anziana madre ingombrante e caratteriale a carico. Tu hai fotografato una Milano molto alternativa, con una predilezione per la periferia, con degli squarci di decadenza molto romantica, a mio modo di vedere. Anche qui il lavoro qual è stato? Ho già inquadrato tante volte Milano, ogni angolo per me è un'inquadratura che ho già fatto o che farò. Mi piace in generale nel mio lavoro far sì che lo spazio esterno sia una metafora dello spazio interno. Nel caso di 35 minuti in scena di Gianna ho cercato una Milano, hai dici bene, romantica e decadente, perché sono due tematiche che Gianna e sua mamma portano sulla pelle. La decadenza c'è perché la decadenza della vita, la decadenza del teatro stesso, e il romanticismo c'è perché c'è questo iato alla vita proprio nel momento della morte, che è molto romantico. E allora anche Laura Chiossone per Tra 5 minuti in scena nei cinema italiani, anche questo in una ventina di città, quindi insomma reperibile nelle grosse città italiane un po' dappertutto. A questo punto si gioca ancora insieme con la seconda traccia del film misterioso di oggi. Dean non sente la responsabilità verso gli altri, non conosce il concetto, anzi ritiene che gli altri abbiano un misterioso obbligo di mantenerlo. Rosa Purpura, @radio24.it, di che film si tratta, il vostro nome, cognome e indirizzo, il tentativo ultimo per poter vincere il Blu-ray di questo film tra pochi minuti. E allora adesso abbiamo un ultimo film da consigliarvi. Avete visto questa settimana tutti i film da consigliare, non ci sono film da evitare, bisognerebbe avere tanto tempo a disposizione per poterli vedere tutti, però anche qui è un film che io ho trovato straordinario. Sapete che spreco raramente la parola capolavoro per descrivere un film, io questo lo chiamo capolavoro. L'ho visto a Venezia lo scorso mese di settembre, ne sono rimasto innamorato, ho sperato fino in fondo che vincesse qualcosa e forse qualcosa ha vinto anche, qualche premio minore. Si intitola La quinta stagione, un film belga, un film che racconta anche qui una sorta di catastrofe, anche se lo fa in maniera molto più intimista, molto meno rutilante, meno adrenalinica di quello che fa il film con Brad Pitt di cui abbiamo parlato all'inizio. E lo fa anche con un taglio che ci aiuta a pensare alla natura, al mondo in cui viviamo in maniera diversa. Cioè a un certo punto, d'un tratto, in un villaggio delle Ardenne in Belgio, pittoresco, fotografato divinamente, dove i personaggi sembrano muoversi all'interno delle luci di un dipinto di Bruegel, ebbene, cosa succede? Che la natura a un certo punto si rivolta e lo fa silenziosamente, come solo lei sa fare. Arriva la primavera, i fiori non fioriscono, le piante non germogliano, gli animali smettono di produrre il latte, per esempio, per quanto riguarda gli animali d'allevamento, la terra non si fa, sostanzialmente non si fa più coltivare, non è più fertile. E sembra che le stagioni si siano fermate. Si entra in questa famosa quinta stagione del titolo, che è un limbo dal quale gli uomini non sanno più come uscire, perché se a un certo punto, pensateci, tutto si fermasse, i cicli delle stagioni della natura si fermassero, chiaramente l'uomo, e qui non succedono alluvioni, maree, devastazioni e terremoti, non succede assolutamente nulla, solo che l'uomo non può più contare sulla natura e chiaramente comincia a fare i conti con se stesso, perché l'uomo quando è di fronte a queste situazioni è perso e non sa fare altro che prendersela con se stesso, col diverso, con quello che potrebbe essere l'untore, e vengono fuori superstizioni clamorose, ancestrali, che ha dato il via a tutte queste disgrazie. We were driven from our lands, chased out of our homes. Nobody would lend a hand to everything we owned. È imputato inverno! Sei condannato per i crimini commessi durante il corso dell'anno! Sarai dato alle fiamme! Che sta succedendo? È così dappertutto. Non so che farci. Non è colpa di nessuno. Non resta che tentare di scongiurare l'inevitabile. E domani? E allora, le suggestioni le avete capite, sono quelle sonore, però il film è tutto da vedere per l'originalità della messa in scena firmata dai belgi Peter Brosens e da Jessica Woodworth, e poi per la magneticità anche dei protagonisti, per questa capacità di portarci all'indietro nel tempo, nei riti stagionali di popoli che, sebbene assolutamente, come dire, omologati, europei fino in fondo, però hanno tradizioni che sfuggono al senso di modernità e che chiaramente esplodono, deflagrano nel momento in cui appunto succede questo inceppamento del ciclo delle stagioni. Davvero grande film, la quinta stagione da vedere al cinema in questo ricchissimo fine settimana. La Rosa Purpurea. Ed eccoci alla carrellata finale della Rosa Purpurea, come sempre dedicata al cinema da vedere in casa, fra televisione e un video, e come sempre aperta dai consigli degli amici del settimanale Film TV, come sempre militante per i cinefili di tutta Italia, nelle edicole. E allora, Giulio San Giorgio è qui con noi per raccontarci le scelte di questa settimana. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Senti, abbiamo parlato del Festival di Cannes di quest'anno, prima con Salvo, un Festival di Cannes di tanti anni fa, esattamente la 43esima edizione nel 90, portava in scena un film tratto da un romanzo di grande successo di Ian McEwan che si intitolava Cortesie per gli ospiti, che adesso questa settimana possiamo vedere in TV. Esattamente, prima di trasformarsi nel titolo di un brutto reality show, Cortesia per gli ospiti era appunto il titolo di un bellissimo romanzo di Ian McEwan, portato poi sullo schermo da Paul Schrader, sceneggiatore di Scorsese e regista sempre troppo sottovalutato. In questo film, che potete vedere lunedì pomeriggio su Iris alle 13.05, Schrader, su una sceneggiatura di uno dei massimi drammaturghi del secolo scorso, ovvero Harold Pinter, il genio del teatro dell'assurdo, racconta la storia di una giovane coppia di inglesi in crisi sentimentale a Venezia, una Venezia inedita, inquietante, erotica ed allarmante, come se la città rispecchiasse gli stati d'animo dei protagonisti, che finiscono poi nella trappola di una coppia più matura, in un gioco che si rivela mortale. Un film formalmente raffinato, uno scavo psicologico tesissimo, elegante, impietoso, esangue ma solo all'apparenza, con un quartetto d'attori superbo. Ci sono Rupert Everett e Natasha Richardson, Christopher Walken e Helen Mirren. E allora ricordiamo l'appuntamento Cortesia per gli ospiti lunedì 1 luglio alle 13.05 su Iris. E bisogna andare ancora indietro nel tempo, al 1970, quando Sam Peckinpah dirigeva La ballata di Cable Hogue. Esattamente, lunedì su Rai Movie alle 21.15, Cable Hogue è un cercatore d'oro tradito da due compari e abbandonato nel deserto, trova una sorgente tra i sassi e la sabbia, sopravvive e registra quel terreno a suo nome. Lì ci costruisce una stazione di fermata per le diligenze, con in mente l'idea precisa di vendicarsi dei traditori. Insieme ai compari di Altman è la satira più corrosiva e dimistificatoria dell'epopea del western. Peckinpah, dopo il leggendario bagno di sangue sacrificale del mucchio selvaggio, brucia al sole del deserto il genere fondativo del mito americano, il western appunto, mostrando le meschinità e le miserie nascoste dietro la leggenda dei pionieri e la leggenda dei self-made men. È un film di crudele e esasperata bellezza, uno dei pochi su cui Peckinpah ha avuto il controllo totale e anche uno dei meno conosciuti. Non è un western crepuscolare, è proprio in tutti i sensi un western funebre e terminale. E allora l'appuntamento invece con La ballata di Cable Hogue lunedì 1 luglio, grande giornata cinefila per quanto riguarda la TV, alle 21.15 su Rai Movie. Grazie a Giulio San Giorgio e gli amici di Film TV. Ciao Franco, alla prossima settimana con i nostri consigli. Ebbene, bene, anche tanto bel cinema in televisione. Terza e conclusiva traccia del film misterioso di oggi. Meglio uscire pazzo, andarmene giù per la strada nera in Messico. Eroina che gocciola in vena. Occhi e orecchie pieni di marijuana, mangiando il dio peyote per terra in una capanna di fango al confine. Meglio sbattere il mio corpo per strada. Beh, insomma, c'è molto molto di una generazione, diciamo così, anni 60, non vi dico proprio più niente, ma dovreste avere indovinato di che film si tratta. Un film della stagione scorsa, La Rosa Purpurea, @radio24.it, è il nostro indirizzo per darci la vostra risposta, il vostro indirizzo di posta, e provare a vincere il Blu-ray di questo film per il più bravo e veloce dei nostri ascoltatori il sabato e la domenica. I più bravi e veloci della scorsa settimana sono stati Federico Ferrari di Gorgonzola, provincia di Milano, e Francesca Tocchè, non lo so come si pronuncerà, di Vittorio Veneto, provincia di Treviso, e hanno indovinato questo film. Un mago dall'immensa rettitudine morale, semplicemente un vero, buon, affidabile mago, brava gente. Il mago, eccolo qui. Come sono andato? E si trattava del grande e potente Oz, il film dell'inizio di questa stagione con cui la Disney ha rinverdito il mito del Mago di Oz, con grande successo e con un film che sicuramente è arrivato al bersaglio. Hanno vinto i nostri ascoltatori che abbiamo citato prima nella sua edizione in Blu-ray. Ce lo racconta invece il nostro Claudio Pofi. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli ascoltatori. Allora, come sempre, pubblicazione di prestigio per Walt Disney Studios Home Entertainment, che ha messo a disposizione, oltre al DVD, una doppia edizione ad alta definizione, un solo disco 2D, oppure la più completa con il secondo disco Blu-ray in 3D. Sono entrambi dischi di strepitosa qualità, in particolare quello 3D dimostra tutte le potenzialità della tecnologia stereoscopica digitale, dal momento che il regista Sam Raimi ha effettivamente impiegato nelle riprese dell'opera la tecnologia stereoscopica. Traccia audio DTS in italiano particolarmente efficace, quella sempre DTS ma ad alta risoluzione, addirittura 8 canali in inglese, è ancora meglio, insomma, per la gioia degli appassionati di Home Theater. Eccetto il trailer stereoscopico di Monster University, sul disco 3D tutti gli extra si trovano sulla versione 2D con vari approfondimenti sulla lavorazione. Uno spazio per il mondo di Oz nell'immaginario di Walt Disney, ma molto divertente, segnalo un mini documentario di 21 minuti seguendo l'attore James Franco per i set. E allora, questo era il game della scorsa settimana. I consigli invece in videoteca per questo weekend e per questa settimana, a cominciare dal grande Akira Kurosawa, dal suo ultimo film che si intitolava Madadaio, il compleanno. Un professore, anche se non insegna più, resta sempre un professore. Mio padre e i suoi amici, che hanno studiato in questa università e sono stati i suoi allievi, ancora oggi, dopo tanto tempo, la chiamano sempre professore e dicono che lei è proprio di oro zecchino. Oro zecchino? Sì, come un lingotto d'oro senza impurità. Credo significhi che lei è un grande, vero professore. Lei è il nostro insegnante di lingua tedesca. Ma credo che lei ci abbia insegnato tante altre cose, ben più preziose della lingua tedesca. A Tokyo nel 1943, dopo 30 anni, un professore universitario lascia la scuola. Attraverso il tempo, ben oltre la fine del conflitto mondiale, alcuni ex alunni proseguiranno a frequentarlo, sostenendolo nei momenti di difficoltà, cogliendo ogni istante per abbeverarsi alla fonte di filosofici insegnamenti, celebrandone ogni anno il compleanno con un rito a esorcizzare l'abbandono della vita terrena. A 20 anni dal Canto del Cigno cinematografico del maestro Akira Kurosawa, il sentimentale ritratto umano di uno degli eroi del grande cineasta giapponese, un professore di letteratura, opera di rara profondità umana e morale, al tempo stesso esente da retorica. Da CG un video, edizione alta definizione con una risoluzione d'immagine inferiore a quella a cui si è abituati con i Blu-ray, qualità di insieme comunque un gradino sopra il DVD, comparto audio con traccia Dolby Digital multicanale in italiano, sofferente per un disturbo di fondo, meglio le altre due tracce, solo due canali, tra cui andrebbe privilegiata l'originale giapponese nonostante i sottotitoli fuori sincrono, come extra una galleria fotografica. E allora, questo era Madadaio. Adesso l'ultimo consiglio, un film invece che è stato presentato a Venezia lo scorso settembre, che è stato fra i primi ad andare in sala in stagione, un grande apologo sulla psiche umana e sulla sua manipolazione, è The Master. La tua vita è difficile? No. Ti piace se ti dicono cosa fare? No. Ti comporti in modo stravagante? No. Provi interesse nelle altre persone? Non molto. Trovi facile essere onesto? Sì. Sei spesso divorato dall'invidia? No, per cosa? Sei spesso divorato dall'invidia? Al termine della Seconda Guerra Mondiale, Freddy Quell è un uomo la cui instabilità mentale lo porta all'alcolismo estremo e a sessuali turbe psichiche. Vagabondando incrocerà l'esistenza con quella di Lancaster Dodd, carismatico filosofo, intellettuale, fondatore di una setta che aborrisce scienza ufficiale e comunismo, mettendo schiere di abbienti proseliti imbambolati da assurde e folli teorie sulla vita. Dodd offrirà riparo al disturbato ex marinaio, su cui sperimenterà un surreale metodo di introspezione e analisi del comportamento. Dal regista di Magnolia, Il petroliere, una dura e autoriale opera raccontando nuovamente della solitudine umana per i luoghi oscuri della mente, i richiami a Dianetics di Hubbard, per molti evidenti, sono sempre stati negati dal regista Paul Thomas Anderson. Lucky Red, l'edizione DVD ma soprattutto Blu-ray, quest'ultimo di prestigiosa qualità d'immagine con una doppia traccia DTS ad alta risoluzione italiano-inglese, con il consiglio di assaggiare anche la versione originale proprio per godere delle performance recitative degli attori, tra cui sicuramente quelle di Philip Seymour Hoffman e Joaquin Phoenix. Tra gli extra segnalo 19 minuti di sequenze omesse dal montaggio e, molto interessante, un documentario di un'ora circa sulla riabilitazione psichiatrica dei soldati americani alla fine della Seconda Guerra Mondiale. E allora, grazie Claudio, appuntamento la prossima settimana. Ciao, a presto. E allora, le note della nostra sigla ci dicono che siamo giunti al termine di questa puntata della Rosa Purpurea. Io vi ricordo la nostra pagina Facebook, come sempre, sulla quale partecipare un po' per tutta la settimana, allungare l'esperienza e raccontarci quello che vedete al cinema, cosa ne pensate, le vostre richieste. Quindi la Rosa Purpurea Radio 24 su Facebook, cliccate mi piace e unitevi alla nostra comunità. Grazie a Giorgio De Luca in redazione, a Pietro Lacorte in regia. Appuntamento la prossima settimana, sarà la settimana di The Lone Ranger con Johnny Depp. Noi ci saremo per raccontarvelo. Un saluto da Franco D'Assisi.